in primo piano. Buongiorno, buona domenica e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 da Giulia Crivelli. Cominciamo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani italiani, dal Corriere della Sera, che ha in come notizia principale gli sviluppi sull'imminente sostituzione del Presidente della Repubblica, che sapete ha fatto capire, non ha detto proprio chiaramente, ma ha fatto capire che vorrebbe andarsene probabilmente o prima della fine dell'anno o subito dopo, ed è naturalmente subito partito il toto nomine nei giorni scorsi. Ieri c'è stata una dichiarazione di Berlusconi sul Quirinale. Berlusconi ha detto che vedrebbe bene Giuliano Amato, e ora il titolo del Corriere è: Quirinale, Renzi frena Berlusconi, virgolettato, è irricevibile la proposta di fermare le riforme, sì però una scelta condivisa per il Colle. Naturalmente quello che tutti auspicano, perché una carica così più è scelta in modo condiviso meglio è, credo. E la fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata all'incredibile incontro che c'è stato ieri in Turchia tra Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo. La foto è quella di Papa Francesco che si inchina con il Patriarca che lo bacia sulla testa, il Papa dal Patriarca lo storico inchino. Ci sono due articoli a pagina 15 di Luigi Accattoli e Gian Guido Vecchi e un'analisi di Andrea Riccardi a pagina 31. Vi segnalo anche la vignetta di Giannelli, perché sapete ha fatto molto discutere, ha scatenato le ire, le reazioni della segretaria della CGIL Susanna Camusso, l'intervento che Renzi ha mandato registrato alla CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, dove ha detto che i piccoli imprenditori, gli artigiani per l'appunto, sono degli eroi in una situazione come questa. Non l'avesse mai detto, e c'è quindi la vignetta di Giannelli con Renzi che sotto il titolo Nuova Sinistra dice: imprenditori di tutto il mondo, unitevi. C'è poi anche un'intervista al ministro del lavoro Padoan di Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera, poi ne leggeremo alcuni brani. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso il titolo, oggi è una di quelle giornate in cui i titoli sono abbastanza simili tra i grandi quotidiani, anche in questo caso il titolo principale è dedicato alla questione del Quirinale. Renzi avverte Berlusconi: non tratto ora sul Colle, prima si vota l'Italicum. Quindi stesso concetto espresso dal Corriere, cioè prima facciamo le riforme che avevamo, sulle quali sembravamo più o meno d'accordo, famoso patto del Nazareno, e poi parliamo del Quirinale. C'è anche riferimento alla questione dei 5 Stelle, invece pare che ci siano altre espulsioni, questo è il titolo: Grillo pronte altre espulsioni, sarebbero 20 i parlamentari dei 5 Stelle che saranno sottoposti a questo processo sul blog di Grillo, poi tra l'altro, e dove i frequentatori del blog, che sono solo, lo ricordo, una piccola parte poi di chi ha votato il Movimento 5 Stelle, i frequentatori del blog appunto votano sulla proposta di espellere alcuni parlamentari. È successo la settimana scorsa con i due parlamentari accusati di non aver fatto il versamento di parte del loro stipendio al fondo per le PMI e sono stati poi appunto espulsi. C'è un richiamo anche al congresso del Front National a Parigi. Le Pen feeling con la Lega, l'avete sentito un po' in tutti i telegiornali. Marine Le Pen, che tra l'altro si è autocandidata all'Eliseo a diventare presidente della Francia, le elezioni si terranno nel 2017 ma la corsa è di fatto già iniziata. Marine Le Pen ha poi appunto detto questa frase che è stata ripresa già un po' da tutti già da ieri sera, che Matteo Salvini la manda in estasi politica naturalmente. Poi c'è un riferimento al caso Mubarak, assolto Mubarak, cancellata Piazza Tahrir. Trovate poi tutti l'articolo a pagina 26 e l'analisi di Adriano Sofri. L'analisi di Adriano Sofri a pagina 26 e la cronaca a pagina 16. La fotonotizia invece dedicata al bambino di 8 anni sparito e poi ritrovato cadavere vicino a Ragusa, trovato morto a 8 anni, la paura di un orco a Ragusa. La prima pagina del Corriere della Sera qui è concentrata sulla legge di stabilità, perché c'è stato il via libera della Camera. C'è un approfondimento a pagina 2 e 3 su tutti i punti che tocca la legge di stabilità, con anche il rating del Sole 24 Ore che ha tre stadi, da un voto che ha tre possibilità a ogni singolo provvedimento, con un'efficacia bassa, media o alta. E purtroppo la maggior parte di questi provvedimenti viene considerato con un'efficacia media o bassa. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, anche la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, il nostro collega della redazione di Finanza. Questa settimana si concentra su Azimut, che è un'azienda quotata di gestione del risparmio. Azimut diversifica, l'obiettivo è crescere nel risparmio gestito degli emergenti, dei paesi emergenti, naturalmente. Due interessanti articoli richiamati in prima pagina, che poi trovate alle pagine 22 e 20. Uno di Carlo Bastasin, La depressione degli italiani e il rischio paese. Entrambi gli articoli sono raggruppati sotto il cappello Psicologia e ripresa. E l'altro è un articolo di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, che si concentra sulla cosiddetta Abenomics, cioè la politica economica del premier giapponese Shinzo Abe. Il Giappone di Abe fa la cosa giusta. Il premier giapponese Shinzo Abe sta facendo la cosa giusta, rimandando l'ulteriore aumento delle imposte sul consumo. E poi l'analisi continua. Sapete che appunto era stato annunciato l'aumento della locale IVA, l'imposta sul consumo, e poi è stato rimandato perché si temeva che questo avrebbe depresso i consumi. E in un momento in cui il Giappone, pur avendo fatto molti tentativi, non è ancora uscito dalla lunghissima recessione che lo caratterizza, questa misura appunto è stata rimandata. La Stampa si concentra sui dati della disoccupazione, che in realtà non sono di ieri ma dell'altro ieri, però c'è un'analisi ulteriore fatta dalla Stampa, molto interessante questa scelta che fa la Stampa, perché tutto sommato va un po' in quella direzione che in molti auspicano per i quotidiani, cioè più l'analisi che inseguire la cronaca, visto che, come ho detto per la questione Salvini, spesso la cronaca l'abbiamo sentita tutti nei telegiornali della sera prima, o in questo caso magari anche nel GR di Radio 24 che precede la rassegna. E quindi ecco che la Stampa titola: disoccupazione mai così alta, al 13,2%, non è il dato peggiore dal 1977, come si era detto ieri all'indomani della pubblicazione di questi dati, ma di tutta la nostra storia. L'analisi dell'economista Luca Ricolfi. Anche in questo caso la fotonotizia è quella dell'inchino di Francesco davanti al Patriarca, con due analisi: una di Enzo Bianchi, il priore di Bose, un abbraccio come quello tra Pietro e Andrea, e poi una di Enzo Bettiza, il papa argentino che rivaluta la lingua italiana. Naturalmente l'Avvenire dedica l'apertura a questa storica visita di Papa Francesco in Turchia. In realtà in Turchia era già andato anche Benedetto, Papa Benedetto, però questa volta sicuramente questi gesti, questi incontri hanno un significato particolare, anche alla luce del conflitto dello scacchiere medio orientale, dove la Turchia ha sicuramente un ruolo molto importante anche nell'arginare il califfato, l'ISIS e l'IS. Quindi il titolo dell'Avvenire è Il dono dell'unità: Francesco e Bartolomeo pregano insieme la grazia di essere fratelli nella speranza. E poi una notizia che ha solo l'Avvenire, come sempre dico, veramente bisogna riconoscere all'Avvenire assolutamente questo grande merito di tenere i fari accesi su questioni che su altri giornali vengono trattate solo quando magari c'è uno spunto di cronaca. E allora l'immigrazione, Triton, che sapete ha sostituito, è l'operazione nome, che è il nuovo nome dell'operazione dell'Unione Europea nel Mar Mediterraneo per arginare o comunque controllare o tenere sotto controllo o anche solo monitorare l'immigrazione. Triton e Mare Nostrum, 10.000 salvati in un mese, l'Italia non si tira indietro e Frontex ammette gli arrivi cresceranno. La prima pagina del Messaggero, anche in questo caso dedicata alla questione del Quirinale: Renzi, Colle, no a nomi bloccati. E poi una piccola fotografia per ricordare, come del resto fanno anche molti altri giornali, il No Tax Day, così è stata battezzata l'iniziativa di Berlusconi e di Forza Italia ieri a Milano, il ritorno in piazza dell'ex cavaliere che, sapete, come forse sapete, ha annunciato che se per caso Forza Italia vincesse alle prossime politiche, se ci saranno, comunque ha annunciato questo piano di Forza Italia, per 6 mesi via le tasse sulla casa, oltre anche ad alcune promesse fatte ai pensionati. Un'ultima segnalazione dalla prima pagina del Messaggero: è l'unico giornale che dà così tanto spazio alla notizia in prima pagina, il ministro della salute Lorenzin sui vaccini, primi test, non c'è nesso con i decessi. Sapete, la questione degli 11 decessi di persone anziane che potrebbero essere collegati all'assunzione del vaccino, perché sono avvenuti a breve distanza appunto dall'assunzione del vaccino. Ci risentiamo subito dopo le notizie sul meteo. In primo piano. Ancora buona domenica, buona giornata da Giulia Crivelli e torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Dopo aver visto quelle dei principali quotidiani italiani, vi segnalo quella del Secolo XIX, che è un giornale di Genova, e ve la segnalo perché il titolo è dedicato alle primarie del PD, che dovranno scegliere chi si candiderà per, appunto, nel PD per la carica di presidente della regione Liguria, e uno dei temi principali è stata l'alluvione che ha colpito la Liguria circa un mese fa. E naturalmente sappiamo che il rischio non è finito. Ogni volta che quest'inverno pioverà, perché non sarà certo in pochi mesi che si risolvono i problemi del dissesto del territorio Ligure non solo, ogni volta che pioverà staremo tutti con il fiato sospeso per vedere quali sono le conseguenze. In ogni caso, ecco il titolo: alluvione e rissa nel PD. Infatti il PD ha cominciato a litigare, partendo proprio dalle accuse fatte all'attuale presidente della regione Claudio Burlando, che ha risposto: non buttate il mio lavoro. E il ministro, tra l'altro il ministro Orlando, il ministro della giustizia del Partito Democratico, ha detto: basta cemento in Liguria. Claudio Burlando è accusato di aver, appunto, di aver favorito, se non almeno non ostacolato, questo partito del cemento. Grande scambio di accuse anche tra i candidati alle primarie, Raffaella Paita e Sergio Cofferati, che hanno avuto, appunto, quello che il Secolo XIX definisce primo duello pubblico tra i due. Vi segnalo la prima pagina della Padania. La Padania da domani non sarà più in edicola. Il giornale della Lega, c'è un grazie di Matteo Salvini e poi anche un articolo della direttrice Lussana, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono perché era ospite un giorno alla settimana di Alessandro Milan al Mattino. Grazie è il titolo dell'editoriale di Matteo Salvini, che poi continua nell'ultima pagina: rialziamo la testa per cambiare l'Europa e fare la storia. E vi segnalo anche parte, appunto, dell'editoriale, diciamo, di addio di Aurora Lussana. Ve ne leggo una parte: quando chiudo un giornale nessuno può autoassolversi. Forse nell'era della comunicazione liquida e destrutturata, del dominio narcisistico dei social network, della disintermediazione politica e della rapsodica informazione digitale, gli house organ, cioè gli organi di partito per esempio, appaiono obsoleti e anacronistici. Quel che è certo però è che se il nostro quotidiano, come tutti i quotidiani di partito, appare ormai antistorico, ha fatto parte senza dubbio della storia politica nazionale, della storia della Lega Nord. Una Lega che oggi, con Matteo Salvini, saprà rigenerarsi in una rinnovata comunità politica che darà inizio alla sua nuova storia. Senza vittimismi e senza retorica, ringrazio la mia redazione, che ha fatto con onore il suo dovere e il suo mestiere fino all'ultimo. Con profonda riconoscenza saluto i nostri lettori. E per quanto naturalmente si possa essere d'accordo o no con la Lega, essere o no elettori della Lega, credo che sia sempre un peccato quando un giornale chiude, anche se è un giornale di partito, come purtroppo è successo pochi mesi fa anche all'Unità, che per tanti anni è stato un giornale di partito, il giornale del Partito Comunista. Veniamo alla prima pagina del giornale, che invece dedica il titolo a quella No Tax Day, appunto, di cui abbiamo parlato, anche perché lo cita anche il Messaggero in prima pagina, cioè il ritorno in piazza di Berlusconi: tasse al 20% e doppia moneta. Sono stati molti, infatti, diciamo, i proclami fatti da Berlusconi ieri. Vi dicevo quello sul blocco delle tasse sulle transazioni, sulle compravendite immobiliari per 6 mesi, poi una tasse al 20% per tutti. Sapete che più o meno si calcola che attualmente i redditi da lavoro dipendenti e le pensioni siano tassate oltre il 50%, per alcune persone che lavorano con la partita IVA la percentuale è ancora più alta, quindi insomma sarebbe veramente un cambiamento incredibile. Nell'ultima sfida di Berlusconi anche pensioni a 1.000 euro, questo è un altro annuncio, sgravi sulla casa li ho menzionati, il Cavaliere mette in campo la nuova ricetta e si contrappone a Renzi sull'economia. La prima pagina di Libero: le aziende che offrono lavoro, decine di imprese per migliaia di posti a tempo indeterminato, anche ben pagati e con prospettive, tutti in Italia. E poi l'elenco di queste aziende, sicuramente un articolo, appunto, tra l'altro questo è l'occhiello di speranza, di positività. Una speranza c'è però poi anche tutto un altro approfondimento sul sindaco di Roma Ignazio Marino, è stata raccolta tutta una serie di opinioni di persone più o meno famose, da Rita Dalla Chiesa a Claudio Lotito, presidente della Lazio, Paola Saluzzi, conditrice TV, giornalista, Marco Liorni, Lorena Bianchetti, lo chef Gianfranco Vissani Tutti un po', senza un po', tutti molto critici verso il sindaco Marino. E poi c'è l'intervista a Alfio Marchini che riprova a conquistare Roma. Ricorderete, nel 2013 aveva appunto, si era candidato come sindaco di Roma. E l'intervista di Barbara Romano a pagina 8, che viene sintetizzata in questo virgolettato tratto da una delle risposte di Marchini: Ignazio, un marziano che terrorizza i romani. Sapete che, appunto, tra l'altro, tra le molte colpe che vengono di cui viene di cui, a cui, che vengono additate per indicare quanto Marino sia inadeguato, c'è il fatto che non è di Roma. Il manifesto, una fotonotizia con una foto scattata ieri a Roma, l'impresa alimentare, Renzi sono questi veri eroi, la Camusso ha definito così in piazza, mentre era in piazza Roma, tutti i partecipanti a questa manifestazione, cioè contadini e pescatori, e questa è la replica, come dicevamo all'inizio, invece alle parole di Renzi registrate per la CNA. Sempre un virgolettato della Camusso: per Natale vai dalle braccianti rumene violate dai padroni. In tutta Italia la giornata della colletta alimentare, la ricorda il manifesto, un'iniziativa organizzata soprattutto da associazioni cattoliche, ma che coinvolge tutti, ed è appunto quell'iniziativa che si svolge una volta all'anno in tantissimi supermercati. I volontari chiedono a chi sta facendo la spesa di donare parte della spesa, appunto, per poi, che viene poi rigirata a persone o associazioni bisognose o a mense aperte a chi appunto ha bisogno di un pasto caldo. Il Fatto Quotidiano, tutto concentrato su quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, pronte al 20 espulsioni, Movimento 5 Stelle tutti contro tutti. Invece l'editoriale di Marco Travaglio è dedicato alla corsa per il Quirinale, molto acidamente polemico, come spesso accade. Se la prende un po' con tutti, chi secondo lui si sta autocandidando, cioè la Presidente della Camera Laura Boldrini, la Ministra della Difesa Roberta Pinotti, ma anche Piero Grasso. Sapete, il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, quindi se Napolitano si dovesse dimettere prima delle elezioni, in quel tempo in cui si aspetta appunto l'elezione di un nuovo capo dello Stato, il reggente sarebbe Piero Grasso. Passiamo alle pagine. Ah no, un'ultima citazione per la Gazzetta Sportiva, perché oggi ci sono, insomma, tre partite che i rispettivi tifosi delle rispettive squadre, ma forse tutti, guarderanno con attenzione. Una è Juventus-Toro, il derby torinese alle 18, Roma-Inter alle 20:45, Sampdoria-Napoli alle 21, e la Gazzetta le definisce trappoloni. Infatti, per Juve-Toro, Allegri, cioè la Juventus è strafavorito, tenta l'allungo, deve fare i conti con il laboratorio Ventura, con la sete di gol dell'ex juventino Quagliarella. Roma-Inter, Totti sogna l'aggancio alla capolista, ma dall'altra parte c'è di nuovo Mancini che promette battaglia. E poi Sampdoria-Napoli con Mihajlovic, sente aria di sorpasso al terzo posto, Benitez, allenatore del Napoli, è in serie utile da 9 gare. Una sfida da film grazie a Ferrero De Laurentiis, cioè i proprietari delle due squadre Sampdoria e Napoli, che sono appunto personaggi importanti dell'industria cinematografica. Veniamo alle pagine interne, cominciamo dal Corriere. Vi dicevo, l'intervista al ministro dell'economia Piercarlo Padoan di Daniele Manca, al vice direttore del Corriere della Sera. Vi leggo questa risposta dove, quando Daniele Manca sollecita Padoan a un commento sul semestre di presidenza europea dell'Italia che sta per finire. Niente polemiche, ma vorrei ricordare che quando a luglio entrammo in carica e mettemmo l'accento sulla nostra azione dicendo che in Europa si doveva iniziare a parlare di crescita, di occupazione, quindi di investimenti, integrazione dei mercati e riforme strutturali, ci fu chi sorrise. Grazie all'Italia quei temi oggi sono dell'Europa intera e non solo. Si è avviato lo scambio automatico di informazioni per evitare l'evasione, il contrasto all'elusione fiscale, ma soprattutto oggi si parla finalmente di investimenti con il piano Juncker da 300 miliardi. È un piano, insomma, di cui si è parlato molto, questo piccolo stimolo, tutto sommato, cioè grande in assoluto, 300 miliardi di euro sono tantissimi soldi, piccolo però se pensate che dovrebbe addirittura servire da stimolo all'economia dell'intera Unione Europea. E Daniele Manca dice: tutti privati però questi soldi, e Piercarlo Padoan risponde: in massima parte sono privati, ma del resto è nel mercato che c'è la liquidità. Gli stati devono agevolare gli investimenti, non sostituirsi ai privati. Dalla pagina interna del Corriere della Sera anche un lungo racconto fatto da Fabrizio Roncone di Alessandra Moretti, che sapete è la parlamentare del PD che ha vinto un seggio al Parlamento europeo, ma adesso, asserendo di aver ascoltato una chiamata diretta di Matteo Renzi, si candida alla presidenza della Regione Veneto. Unghie spezzate, ambulanti ostili, Moretti, le mie primarie con amore, ha detto infatti la Moretti, che si sta talmente stancando in questo suo tour elettorale che addirittura si è spezzata le unghie dopo, e questo diventa un po' così un motivo di scherno, se non altro motivo per farci un titolo, perché sapete che una settimana fa aveva fatto quell'intervista a Corriere TV dicendo che ci tiene molto andare una volta alla settimana dall'estetista, presumibilmente anche per curare le sue mani. È divertente questo ritratto, anche se forse insomma susciterà ulteriori polemiche intorno a questa parlamentare del PD che sostiene che la politica deve essere, cito testualmente, ladylike. Nessuno, o almeno molte di noi credo, non hanno ben capito che cosa intenda. Ci lasciamo un attimo per la informazione sul traffico. In primo piano. E rieccoci per l'ultima parte della nostra rassegna, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne, vi segnalo dalla cronaca di Milano della Repubblica, quindi solo chi vive a Milano potrà leggere questo articolo, ma credo ci sia su internet, è molto interessante, parla di questo progetto che ha coinvolto 65 scuole di Milano e poi le aziende che forniscono la ristorazione a queste scuole. Quello che avanza del pasto può essere messo in un piccolo sacchetto con la scritta "io non spreco" e poi questo cibo viene appunto riciclato. Abbiamo parlato della colletta alimentare, anche in questo caso è un tentativo di ottimizzare la disponibilità di cibo quando poi soprattutto ce n'è troppo e viene magari buttato. Mense, un alunno su tre porta a casa gli avanzi nei sacchetti antispreco, pane, frutta, dessert. Aumentate le famiglie che usano le doggy bag, che è il nome dato negli Stati Uniti a questi sacchetti. In realtà al ristorante, quando appunto si avanza qualcosa, si dice, si chiede di averlo impacchettato e portato a casa con il pretesto magari doggy bag, appunto, di darlo al cane, ma in realtà semplicemente può essere mangiato il giorno dopo. Veniamo al Sole 24 Ore. Sulla prima pagina di Imprese e Territori c'è un'inchiesta su quello che viene definito l'anno orribile dell'olio d'oliva. Sapete infatti che quest'anno è stato un anno molto difficile per la raccolta delle olive, extravergine ai minimi storici, e quindi il prezzo naturalmente sale, il prezzo è balzato da 1,9 a 7 euro al chilo. L'articolo di Giorgio Dell'Orefice con la mappa dei vari cali in tutte le regioni. I cali massimi si sono avuti in Liguria, Toscana, Umbria e Marche, guarda caso, e Basilicata, scusate, con cali del 45%, guarda caso appunto le regioni dove con la maggiore produzione di olio. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, un approfondimento di Antonella Scott su quello che sta succedendo in Russia, l'era glaciale dell'economia russa, colossi nei guai, rublo a picco, fuga di capitali e salari reali in calo. E naturalmente questi dati economici molto reali sono anche la causa di alcune prese di posizione molto dure di Putin, che ha anche, oltre a molte altre difficoltà, sappiamo la crisi con l'Ucraina, ci sono anche le difficoltà economiche. Dalle pagine del Messaggero vi segnalo un'interessante intervista a un economista americano, Dean Baker, che parla del petrolio. Sapete che i prezzi del petrolio stanno scendendo molto, ma anziché, come a volte è successo in passato, anziché a fronte di un calo dei prezzi vedere un calo della produzione, che quindi dovrebbe farli risalire, sapete che l'OPEC ha annunciato che non taglierà la produzione di petrolio, e quindi qui l'analisi di questa situazione del mercato del greggio. E abbiamo tempo ora, spero, per guardare un po' le pagine dei supplementi culturali. Cominciamo naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola "Una goccia pulita". La citazione è di Adrien Bayet, che ha scritto una biografia di Cartesio, Monsieur Descartes, come appunto si chiama in francese. Cercare di vincere se stessi piuttosto che la fortuna, modificare i propri desideri piuttosto che l'ordine nel mondo. Questa è la citazione. E scrive Ravasi: questo era il programma di vita che, stando al suo più autorevole biografo Adrien Bayet, Nella vita di Monsieur Descartes, un libro pubblicato da Delphi nel 96, si era proposto e imposto Cartesio. In pratica, prima di cambiare il mondo, prova a cambiare te stesso. Non per nulla la prima parola pubblica che Gesù pronuncia è "convertitevi", e in greco il verbo indica un mutamento radicale della propria mente, una sorta di torsione totale verso il bene, il bello, il vero e il giusto. Forte è invece la tentazione di impancarsi a giudice delle inequizie del mondo, a emettere proclami di trasformazione sociale, a individuare i tanti vizi altrui. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, sarà pure un mare sporco quello che sta davanti a noi, ma ciò che serve è che tutti portino una goccia pulita, quella della propria onestà e coerenza personale. La copertina però è dedicata a un libro che è in uscita di Elena Bonora, che si intitola Aspettando l'imperatore, principi italiani tra il Papa e Carlo V. Il titolo Ad avvenir Carlo V, lo studio appunto di Elena Bonora, descrive il clima di attesa antipapale dei principi italici per la discesa nella penisola dell'imperatore. L'imperatore Carlo V che visse tra il 1500 e il 1558. Il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, la commedia all'italiana, i numeri di Vanzina non usciti, è un racconto dell'incontro avuto a Roma con Enrico Vanzina, che è figlio di Steno e fratello di Carlo, il regista, un incontro appunto conviviale in cui si è parlato di molti temi, anche della commedia all'italiana. Un appello a pagina 29 della Domenicale per salvare la rivista Poesia di Nicola Crocetti, una bellissima rivista appunto mensile dedicata solo ed unicamente alla poesia, pubblicata dall'editore Crocetti, che è anche editore di libri di poesia. E Nicola Gardini ci spiega: per salvare la rivista serve un benefattore o fondi pubblici che ne scongiurino la chiusura. Qualcuno ama la poesia? È il titolo dell'articolo. E poi la lettura del Corriere della Sera, la copertina è fatta dall'artista Roberto Pietrosanti, sapete, questa è un po' quello che ha sempre fatto la lettura in questi 3 anni, perché ha di recente celebrato 3 anni di vita, il supplemento culturale del Corriere della Sera della domenica, e la copertina è sempre senza titoli, senza richiami a quello che c'è all'interno, è semplicemente appaltata, diciamo così, a un artista. E poi 2 pagine. Dedicate con un articolo lunghissimo, articolo di Fabio Volo. C'è qualcuno, Fabio Volo è molto amato al Corriere, perché direi che ogni 6 mesi gli viene dedicato questo spazio. In ogni caso, insomma, argomenta, ripeto, in 2 pagine, quindi ha tutto lo spazio per farlo, i suoi debiti come scrittore. Fabio Volo e Don Winslow, che è appunto uno scrittore americano considerato, insomma, uno dei maestri del genere poliziesco contemporaneo. Tecniche e segreti del maestro del noir, scrivere un Safari, occhio agli agguati, un giorno ho buttato 300 pagine perché un personaggio non funzionava. È questo dialogo tra Fabio Volo e Don Winslow, per appunto, in cui Fabio Volo spiega anche che ha un debito personale verso questo scrittore. Dalla lettura vi segnalo un interessantissimo articolo di Francesco Battistini, che è uno degli inviati all'estero del Corriere della Sera, che ci racconta dalla Libia i vandali dell'Islam, statue distrutte, pitture rupestri deturpate, moschee, pulpiti sufi demoliti, la pulizia religiosa degli ultramusulmani. Ricorderete, insomma, purtroppo ci sono precedenti di questi disastri in cui alcuni fondamentalisti distruggono i simboli religiosi che considerano ostili. Ricorderete tutti la vicenda in Afghanistan dei talebani, che avevano distrutto quelle incredibili statue nel deserto. Il supplemento della Repubblica della Domenica, che si chiama anche questo La Domenica, che celebra i suoi 10 anni con tanti autori, tanti giornalisti che hanno collaborato, collaborano con la Repubblica, che raccontano, prendendo spunto appunto dal numero 10, per esempio 10 firme, 10 cibi, 10 libri. E poi c'è anche un'intervista a uno dei numeri 10 più famosi del calcio italiano, cioè Alessandro Del Piero. Vi segnalo anche, sempre con la Repubblica, una guida al Fideglio, che sapete aprirà la stagione della Scala domenica prossima, 7 dicembre. L'inaugurazione ha in programma l'unica opera di Beethoven. La lettura contemporanea della regista Deborah Warner mette al centro non la libertà ma la ricerca eroica della passione, un supplemento di 6 pagine. Intervista a Pier Giorgio Verlocchio, di quella serie bellissima di Antonio Gnoli, Straparlando, che viene riassunta con questo virgolettato: sono un intellettuale privato, che bello non contare niente. E invece la rubrica, che sapete anche questa è una mia passione, vi segnalo sempre, di Walter City, ogni settimana un poeta, il focus su un poeta, questa volta è Iosif Brodsky, che è scomparso nel 1996, un poeta russo, quando Brodsky si trasformò in statua. E spiega Walter City, la repressione gli causò una profonda frattura nella psiche, invece dell'eroismo romantico sviluppò un lucido nichilismo. Il supplemento del Messaggero della Domenica, macro, la copertina è dedicata ai droni. Un raggio fermerà i droni, dopo decenni di proiezioni fantascientifiche l'arma laser diventa realtà ed è in grado di abbattere in 5 secondi dalla localizzazione questi piccoli velivoli senza pilota, che sono appunto i droni. È stato ideato in Cina come strumento per contrastare il terrorismo. Alias, il supplemento della domenica invece del Manifesto, dedicato a Franco Fortini, il poeta l'imperdonabile. Quindi mi piace, insomma, che questa settimana c'è molta attenzione alla poesia. Ricerca delle verità e impossibilità del perdono, due figure etiche e ideologiche tra loro connesse. Per rileggere tutte le poesie di Franco Fortini riunite in un Oscar, appunto in un Oscar Mondadori, a cura di Luca Lenzini. E poi tantissime recensioni di libri all'interno, tra cui una molto bella sull'ultimo libro di Amos Oz, Giuda. Era l'ultima segnalazione, grazie a Filippa Oreggi in regia che è riuscito a tenermi nei tempi. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.